voce isterica, pronta ad impedirmi di capire ancora se è possibile volare senza ali libero. Io resto a volteggiare mentre volo in alto. Dipingersi sul volto.